sedersi alla tavola e nel suo sangue riempire il fiume, crepitare tamburi di guerra, mille respiri divenire brume, intere vite che ho attraversato sull'abisso di un altro amore, tracce che mi hanno mostrato le correnti che danno terrore, e sono voce del temporale, sono il battito e il frastuono, e sono legna nel focolare, sono tutto ciò che suono. Violato i pensieri del padre e della madre, ho scordato i giorni, domandato alla donna che vede quale fosse il segreto dei sogni, dal canto di una muta fenice ho ascoltato cadute vuote, respirando nel silenzio del mondo, celebrando desideri e tumulti, e sono voce del temporale, sono il battito e il frastuono, e sono legna nel focolare, sono tutto ciò che suono, sono voce del temporale, sono il battito e il frastuono, e sono legna nel focolare.